Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Oggi al quadrifoglio vorremmo parlare di api, ne vorremmo parlare anche però da un punto di vista tecnico. Qualche mese fa avevamo avuto occasione di sentire parlare di neonicotinoidi in occasione di un convegno che c'era stato nei pressi di Padova, e lì si era visto che questi fitofarmaci erano un po' dei responsabili di morie che erano avvenute negli anni scorsi. Questi fitofarmaci sono banditi in Italia, però anche di recente si sono avuti casi di morie delle api, e comunque questo è un tema, questo dei problemi delle api, di morie, che torna ciclicamente. Ecco, vorremmo un po' capire che cosa sta succedendo, qual è la situazione, che cosa si sta facendo e qual è anche un po' l'importanza scientifica di questo insetto così importante, per esempio per l'impollinazione. E abbiamo pensato di intervistare Franco Mutinelli, che è uno dei maggiori esperti in Italia di questo tema, responsabile del Centro di Referenza Nazionale per l'Apicoltura, che ha sede presso l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie. Professor Mutinelli, ecco, che cosa sta succedendo con le api? Qual è esattamente la situazione? La situazione è quella di una ricomparsa negli ultimi 2 mesi di problematiche di morie che da tempo erano, diciamo così, scomparse. Principali problemi di morie, di spopolamenti, erano già stati riscontrati fra il 2002-2004, e poi successivamente attraverso studi condotti in collaborazione con il CREA di Bologna, nell'ambito di progetti nazionali, si era dimostrata la connessione fra le morie primaverili e la pratica della semina di sementi di mais conciati con neonicotinoidi, e questo aveva portato poi al divieto dell'utilizzo di questi neonicotinoidi come concianti e il divieto dell'utilizzo del seme di mais conciato a partire dal 2008. Questa primavera, a distanza di molto tempo, sono cominciate ad arrivare segnalazioni di morie, di spopolamenti nel nord Italia, alle quali ad oggi non abbiamo ancora non siamo stati ancora in grado di fornire una risposta in termini di causa. Quello che abbiamo evidenziato nei campioni analizzati fino ad oggi è stato il riscontro di molti principi attivi, diversi principi attivi, anche 7-8 diversi o più principi attivi appunto nelle api analizzate, senza tuttavia poter individuare uno specifico principio attivo a cui attribuire questi eventi di morire. Ovviamente l'attività analitica è ancora in corso diciamo, speriamo nel breve periodo di completarla e di avere un quadro più completo della situazione. Va sottolineato che appunto diversi sono i principi attivi riscontrati, dai piretroidi agli esteri fosforici agli stessi neonicotinoidi, in funzione anche della tipologia del territorio e delle colture diciamo connesse agli eventi di moria registrati. Ecco, c'è forse un po' un paradosso, nel senso che le api sono fondamentali per l'agricoltura, perché abbiamo detto appunto che sono impollinatori, però nello stesso tempo è anche, a quanto pare, l'agricoltura, con ciò che viene utilizzato, fertilizzanti, pesticidi eccetera, il principale nemico delle api. Beh sì, diciamo che la convivenza tra agricoltura e apicoltura è una convivenza che è sempre stata piuttosto difficile. negli anni 70 abbiamo avuto dei fenomeni, degli episodi di apicidio, quindi con morie di massa di api legate appunto ai pesticidi utilizzati in quei tempi. Poi con l'evoluzione delle conoscenze e anche la maggiore sensibilizzazione nei confronti di un'agricoltura, diciamo, sostenibile e compatibile con l'ambiente e le api e l'uomo ovviamente, c'è stato un progressivo cambio di marcia in questo senso, e anche sulla base dei provvedimenti comunitari si è, diciamo così, un po' alla volta si sono un po' alla volta sostituiti quei principi attivi ritenuti via via troppo tossici e non più appropriati nel contesto agricolo e ambientale. Questo sicuramente ha migliorato la situazione, ma ovviamente non ha diciamo, risolto tutti i problemi, o non ha risolto il problema di questa convivenza agricoltura e apicoltura, perché anche i nuovi principi attivi introdotti, fra questi appunto i neonicotinoidi, se da un lato si sono dimostrati molto validi dal punto di vista agronomico, hanno in tempi relativamente recenti evidenziato un impatto sull'apicoltura, sulle api, sicuramente non trascurabile, richiedendo sicuramente maggiori approfondimenti, e soprattutto per gli aspetti di effetti subletali cronici che possono avere, che hanno dimostrato avere sulle api. Ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Quando sei qui, sembra che non ci sia alternativa. Fuori da qui c'è un mondo senza vita, restiamo fermi così, restiamo fermi così, baby, non resteresti così, non resteresti così. Tempi moderni mi fanno perdere la percezione. Get me wrong, don't get me wrong, get me wrong, don't get me wrong. In linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di api e dei problemi delle api. Lo stiamo facendo con Franco Mutinelli, responsabile del Centro Referenza Nazionale per l'Apicoltura presso l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie. Ecco, vorremmo capire anche che cosa state facendo nell'istituto, di che cosa realmente vi occupate. L'istituto, come competenze, si occupa sostanzialmente di diagnosi e controllo delle malattie degli animali, nello specifico delle api, controlli sui prodotti dell'alveare in termini di qualità e di residui e ovviamente anche di attività di monitoraggio e ricerca applicata sempre in questo contesto. Ecco, perché non ci sono solo i neonicotinoidi, le api si ammalano anche, ci sono anche i problemi normali della vita anche per loro. Sì, certamente l'aspetto pesticidi che abbiamo appena trattato è uno degli aspetti rilevanti per il settore, ma ovviamente le api, come le altre specie animali, soffrono anche di malattie, quindi è importante essere in grado di riconoscerle, di diagnosticarle e mettere a punto, dove possibile, delle strategie di intervento per il loro controllo. Ecco, le api sono anche degli insetti particolarmente delicati, quindi sono importanti sia per l'impollinazione, ma sono anche un metro per misurare un po' la qualità ambientale, almeno questo mi pare. Sicuramente le api, essendo esposte all'ambiente, a differenza delle altre specie animali, non sono confinabili nella stalla, raccolgono ovviamente nella loro attività quotidiana anche i possibili inquinanti ambientali e attraverso appunto le indagini di laboratorio è possibile individuare questi elementi. Quindi l'ape non solo come insetto che produce il miele ed altri alimenti, ma anche come insetto che garantisce l'impollinazione sia delle colture che delle essenze botaniche spontanee, ma anche un cosiddetto biomarker, quindi un indicatore della presenza di inquinanti nell'ambiente. Ecco, sono in crescita o sono in diminuzione le api in Italia? Dopo i periodi di crisi degli anni passati, il settore presenta un andamento in crescita in termini di numero di alveari. Quindi non mancherà il miele nei prossimi anni? Questo ovviamente è l'augurio di tutti. Nello specifico l'anno corrente non è sicuramente, visto anche l'andamento stagionale, almeno per questa prima parte dell'anno, un anno favorevole alla produzione di miele. Grazie. E passiamo adesso alle consuete notizie. Si è tenuto oggi presso la sede di Agripoli, Salegnaro, l'incontro Malerbe, un taglio alla chimica, un convegno dedicato alle novità della difesa integrata e, nello specifico, all'utilità del microdiserbo. Durante l'incontro, promosso da Condifesa Treviso e da Veneto Agricoltura, si è parlato della possibilità di ridurre l'uso dei fitofarmaci ed è stato presentato il prototipo di una nuova sarchiattrice a guida GPS che permetterebbe, oltre all'estirpamento delle erbe infestanti, anche la rottura della crosta del terreno e che promette il risparmio del 97% di prodotti chimici. Agricoltura di precisione e microdiserbo sono probabilmente la frontiera del futuro per la tutela dell'ambiente e del reddito dell'agricoltore. Prenderà il via a Conegliano presso la sede dell'Università il 18 di giugno alle ore 10 il primo incontro del trittico vitivinicolo 2014 organizzato da Veneto Agricoltura ed Europe Direct Veneto, d'intesa con Regione Veneto ed Ente CRA di Conegliano. Come di consueto l'incontro sarà dedicato allo stato di salute del vigneto veneto alla vigilia dell'estate. Seguiranno a settembre un incontro dedicato alle previsioni vendemmiali e poi a gennaio il consuntivo della vendemmia 2014. E per finire, l'Accademia Internazionale dell'Arte Casearia organizza un convegno aperto a tutti per valorizzare e fare conoscere l'allevamento caprino. Scopo del seminario è fornire delle basi gestionali e delle concrete prospettive agli allevatori che desiderano avviare allevamenti caprini. Il seminario vuole porre l'accento su tutti gli aspetti fondamentali, cercando di sfruttare al meglio le caratteristiche e le potenzialità che derivano da questa attività. Il convegno si terrà nella mattinata del 16 giugno presso la sede della latteria Perenzin a Bagnolo di San Pietro di Feletto in provincia di Treviso, con inizio alle ore 9. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento con il quadrifoglio alla prossima, ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.